Ad alta voce, Maria Paiato legge Amatissima di Toni Morrison. Traduzione di Giuseppe Natale. Beloved è mia figlia. È mia. Visto? È tornata. Da me. Di sua spontanea volontà. E io non devo spiegarle niente. Non ho avuto il tempo di spiegarglielo prima perché... perché bisognava fare in fretta. In fretta. Dovevo salvarla e metterla al sicuro. Ma il mio amore era grande. E lei adesso è tornata. Io lo sapevo. Paul D l'ha fatta scappare via. Così lei non ha avuto altra scelta che tornare da me in carne e ossa. Scommetto che tu, Baby Sachs, tu l'hai aiutata dall'altro mondo. Non la lascerò andare. Mai più. Le spiegherò tutto anche se non devo. Perché l'ho fatto. Perché se non l'avessi uccisa io sarebbe morta e questo non avrei potuto davvero sopportarlo. Quando glielo spiegherò, lei capirà. Perché capisce già tutto. La curerò come nessuna madre ha curato una bambina, una figlia. Nessuno avrà più il mio latte, se non i miei figli. Non ho mai dovuto darlo a nessun altro e l'unica volta che è successo me l'hanno preso. M'hanno tenuta ferma e me l'hanno preso, il latte della mia bambina. Nan doveva allattare i bambini dei bianchi e anche me, perché la mia signora era nella risaia. I bambini dei bianchi se lo prendevano per primi e io prendevo quello che restava o che non restava. Non c'era latte da poppare che fosse soltanto mio. So cosa vuol dire essere senza il latte che è tuo. Dover lottare e strillare per averlo. E ne restava così poco. Lo racconterò a Beloved, lei capirà. Lei è mia figlia. Quella per cui ho cercato di avere il latte, anche dopo che me l'avevano rubato. Dopo che mi avevano trattato come se fossi una mucca. No, una capra. Dietro la stalla perché faceva troppo schifo stare dentro coi cavalli. Però io non facevo troppo schifo quando dovevo dare da mangiare o prendermi cura di Mrs. Garner. Io la curavo come avrei potuto curare mia madre se avesse avuto bisogno di me. Se l'avessero lasciata venire via dalla risaia, perché io sono stata l'unica che non ha buttato via. Non avrei potuto fare di più per quella donna. Più di quello che avrei fatto per mia madre. Se si fosse ammalata e se avesse avuto bisogno di me, io sarei rimasta con lei finché fosse guarita o morta. E anche dopo sarei rimasta. Però Nan m'ha tirato via. Prima che potessi controllare il marchio, era lei, d'accordo, però per tanto tempo non ci ho creduto. Cercavo dappertutto il suo cappello. Dopo mi sono messa a balbettare. Non ho smesso fino a quando non ho visto Hall. Oh, ma adesso è roba passata. Sono qui. Sono ancora viva e la mia bambina è tornata. Adesso posso di nuovo guardare le cose, perché lei è qui a vederle con me. Dopo quanto è successo nel capanno avevo smesso. Adesso, al mattino, quando accendo il fuoco, voglio guardare fuori dalla finestra per vedere che effetto fa la luce del sole quando comincia il giorno. Arriva prima alla manovella della pompa o al rubinetto? Voglio vedere se l'erba è grigio-verde, marrone o che altro ancora. Ora capisco perché Baby Sachs ha passato gli ultimi anni della sua vita a riflettere sui colori. Non aveva mai avuto il tempo di guardarli, figuriamoci di goderseli. Ci aveva messo tanto per finire con il blu, poi con il giallo, poi con il verde. Era a buon punto con il rosa quando è morta. Non credo che volesse arrivare al rosso e adesso capisco perché. Io e Beloved abbiamo fatto di meglio. A dire il vero, quello e la lapide, rosa, sono gli ultimi colori che mi ricordo. Adesso ci farò più attenzione. Pensa che cosa sarà la primavera per noi. Pianterò le carote così potrà vederle e anche le rape. Ne hai mai vista una, bambina mia? Dio non poteva fare niente di più bello. Sono viole e bianche, con il ciuffo tenero e la testa dura. È bello quando le stringi in mano e hanno il profumo del ruscello in piena. Più amaro, però più allegro. Sentiremo il profumo insieme, beloved. Beloved, perché sei mia. E io devo farti vedere queste cose e insegnarti tutte le cose che una madre deve insegnare. È strano come uno perde di vista certe cose e ne ricorda altre. Non dimenticherò mai le mani di quella ragazza bianca, Amy. Però ho già dimenticato il colore di tutti quei capelli che aveva in testa. Gli occhi dovevano essere grigi, credo. Mi sembra di ricordare qualcosa del genere. La prima volta che m'hanno picchiata è stata anche l'ultima. Nessuno mi poteva separare dai miei figli. Se non fossi stata lì a prendermi cura di Mrs. Garner, forse avrei potuto sapere quel che era successo. Forse Hall mi stava cercando. Sono rimasta in piedi vicino al letto aspettando che finisse col vaso da notte. Quando l'ho riportata a letto mi ha detto che sentiva freddo. Faceva un caldo infernale e lei voleva le coperte. Mi ha detto di chiudere la finestra. Le ho detto di no, lei aveva bisogno di coprirsi. Io di aria. Finché quelle tende gialle continuavano a sbattere piano, io stavo bene. Avrei dovuto darle retta. Forse quelli che sembravano spari lo erano davvero. Forse avrei potuto vedere qualcosa o qualcuno. Forse. Comunque ho portato i miei bambini al campo di grano. Hall o non Hall. Gesù, quando ho sentito il rumore di sonagli di quella donna. Nessun altro? Mi ha chiesto. Le ho detto che non sapevo. Ha risposto, è tutta la notte che sono qui, non posso più aspettare. E ho cercato di convincerla, lei ha detto non posso, avanti, su. Non si vedeva nemmeno un uomo in giro. I ragazzi avevano paura. Tu mi dormivi sulla schiena, Denver mi dormiva nella pancia. Mi sentivo come se fossi divisa in due. Le ho detto di portarli via tutti. Io dovevo tornare indietro, non si sapeva mai. Lei mi ha guardato, nient'altro. Mi ha detto, donna, mi sono morsicata un pezzo di lingua quando mi hanno aperto la schiena. Ce n'era rimasto un pezzetto attaccato, ho chiuso i denti. Ed è venuto via, subito. Ho pensato, buon Dio, adesso mi mangio tutta da sola. Hanno scavato una buca perché non volevano farmi male alla pancia. A Denver non piace quando racconto queste cose. Lei odia tutto quello che racconto di Sweet Home. Le piace solo quando racconto com'è nata lei. Ma tu eri lì. E anche se eri troppo piccola per ricordartelo, te lo posso dire io. Il pergolato. Quello te lo ricordi? Ho corso così veloce. Le mosche m'hanno fatto correre da te. Dovevo capirlo subito chi eri, quando il sole t'ha cancellato il volto come quando t'avevo portato al pergolato. Dovevo capirlo subito quando mi si sono rotte le acque, nell'attimo preciso in cui t'ho vista seduta su quel ceppo, si sono rotte. E quando t'ho vista in faccia, c'era più di un segno che faceva pensare come dovevi essere dopo tutti questi anni. Dovevo capirlo subito chi eri, perché tutte quelle tazze d'acqua che bevevi, una dopo l'altra, erano la prova e ti collegavano a quel primo giorno quando sono arrivata al 124 e tu m'hai sputacchiato in faccia. Dovevo capirlo subito. Ma Poldi m'ha distratto. Altrimenti avrei visto il segno delle mie unghie proprio lì, sulla fronte, dove potevano vederle tutti, di quando t'ho tenuto per la testa, là fuori nel capanno. Il mio piano era di andare tutti all'altro mondo, dove c'è la mia signora. Me l'hanno impedito. Però non t'hanno impedito di arrivare qui. No, no. Sei tornata. Proprio come una brava ragazza. Come la figlia che volevo essere io. Però tu sai già tutto. Perché sei una bambina sveglia, lo dicevano tutti. Perché quando sono arrivata qui tu gattonavi già. Cercavi di salire le scale. Baby Sax le aveva verniciate di bianco così potevi vederle fino in cima anche al buio, dove non arrivava la luce della lampada. Oh signore, come ti piacevano quelle scale! Ci sono andata vicino. Ci sono andata vicino a fare la ragazza del sabato. M'ero già fatta alla bottega dello scalpellino. Il passo verso il mattatoio era breve. Quando ho messo quella lapide, volevo stendermi anch'io lì con te, mettere la tua testa sulla mia spalla e scaldarti. E l'avrei fatto se non fosse stato che Bugler e Howard e Denver avevano bisogno di me, perché allora mi sentivo spaesata. Allora non potevo mettermi giù lì con te, non importava quanto lo desiderassi. Non potevo mettermi giù in santa pace da nessuna parte allora. Adesso posso. Posso dormire come gli annegati, che Dio abbia pietà. È tornata da me, mia figlia, ed è mia. Beloved è mia sorella. Ho mandato giù il suo sangue assieme al latte di mia madre. La prima cosa che ho sentito, dopo non aver sentito più niente, è stato il rumore di lei che gattonava su per le scale. È stata la mia compagna segreta finché non è arrivato Paul D. Lui l'ha sbattuta fuori. Fin da quando ero piccola è stata lei la mia compagna e mi ha aiutato ad aspettare il mio papà. L'aspettavamo, io e lei. Voglio bene a mia mamma, ma so che ha ucciso una delle sue figlie. E anche se è tanto cara con me, io ho paura di lei. Per poco non ha ucciso i miei fratelli e loro lo sanno. Mi raccontavano delle storie per far morire le streghe, per farmi vedere come si faceva, casomai ne avessi avuto bisogno. Ho sempre il terrore che quanto è accaduto e che le ha fatto pensare fosse giusto ammazzare mia sorella possa capitarle di nuovo. Non so che cosa e chi, ma forse qualche altra cosa terribile può farglielo fare di nuovo. Adesso la responsabilità è tutta mia. Beloved, lei può contare su di me. Quel giorno alla radura credevo che volesse ucciderla. Ucciderla a sua volta. Ma poi l'ha baciata sul collo. E io devo metterla in guardia. Non deve amarla troppo, non deve. Forse ha ancora dentro di lei quella cosa che le fa pensare che sia giusto ammazzare i figli. Devo dirglielo. Devo proteggerla. Lei mi tagliava la testa tutte le sere. Bugler e Howard me l'avevano detto che l'avrebbe fatto, e così è stato. I suoi begli occhi mi guardavano come se fossi una sconosciuta, né cattivi né altro, ma come se io fossi qualcuno che aveva trovato lì e di cui si dispiaceva. Non voleva farlo, però doveva, e non avrei sentito male. Era solo una di quelle cose che fanno i grandi, come toglierti una scheggia dalla mano, sfiorarti con l'angolo dell'asciugamano se c'è un po' di pulviscolo nell'occhio. Prima esamina Bugler e Howard, controlla se stanno bene, poi viene verso di me. So che sarà brava, lo farà con cura. So che quando mi taglierà la testa lo farà come va fatto, non mi farà male. Dopo che ha finito, me ne sto lì per un minuto, sola con la mia testa. Poi lei la porta di sotto per farmi le trecce. Io cerco di non piangere, però fa così male quando li pettina. Quando ha finito di pettinarmi e comincia a farmi le trecce, mi viene sonno. Ho voglia di addormentarmi, però so che se lo faccio non mi sveglierò più. Perciò devo stare sveglia. Finché non ha finito con i capelli, poi posso dormire. La cosa che mi fa più paura è quando aspetto che lei entri a farlo. Non quando lo fa, ma quando aspetto. L'unico posto dove non può prendermi la sera è nella stanza di nonna Baby. La stanza al piano di sopra, dove dormiamo noi. Prima era la stanza in cui dormiva la servitù, quando lì ci vivevano i bianchi. Avevano anche la cucina fuori. Quando nonna Baby è morta, io sono andata lì. Mi è dispiaciuto. So che a nonna Baby sarebbe piaciuta la cerimonia e la gente che era venuta, perché c'era rimasta male non vedendo nessuno e non andando da nessuna parte. Si dispiaceva solo. Meditava sui colori e sull'errore che aveva fatto. Riflettere su quanto potevano fare il cuore e il corpo era sbagliato. I bianchi erano venuti lo stesso, nel suo cortile. Lei aveva fatto quel che doveva fare e loro erano venuti lo stesso nel suo cortile. Non sapeva che cosa pensare. Tutto quello che le era rimasto era il suo cuore e loro l'avevano fatto così a pezzi che nemmeno la guerra poteva interessarla. Mi ha raccontato tutto del mio papà, come aveva lavorato sodo per comprarla. Dopo che la torta era stata rovinata e i vestiti stirati erano stati messi in disordine e dopo che avevo sentito mia sorella salire le scale gattonando per tornare nel suo letto, mi ha raccontato anche delle cose su di me. Ero stregata, fin dalla nascita. Ma mi avevano salvato e non dovevo aver paura di quel fantasma perché avevo assaggiato il suo sangue quando la signora m'aveva allattato. Diceva che il fantasma voleva la signora e voleva anche lei perché non aveva fatto niente per fermarla, ma a me non mi avrebbe mai fatto del male. Dovevo solo stare in guardia, perché era un fantasma affamato e aveva bisogno di un sacco di amore, il che era più che naturale, tutto sommato. E così io faccio. L'amo. Così faccio. Lei giocava con me e veniva sempre da me quando ne avevo bisogno. Lei è mia. Beloved, lei è mia. Io sono beloved e lei è mia. La vedo mentre separa i fiori dalle foglie. Li mette in un cesto rotondo, le foglie non le vanno bene. Riempie il cesto. Fende l'erba, vorrei aiutarla, ma ci sono le nuvole di mezzo. Come posso esprimere delle cose che sono delle immagini? Io non sono separata da lei. Non c'è un punto dove io finisco. La sua faccia è la mia e io voglio essere lì dove si trova la sua faccia e voglio osservarla allo stesso tempo. Una cosa meravigliosa. Tutto questo è adesso, è sempre adesso. Non ci sarà mai una volta che io non me ne sto rannicchiata a guardare gli altri che stanno rannicchiati pure loro. Io sono sempre rannicchiata. L'uomo sulla mia faccia è morto, la sua faccia non è la mia. La sua bocca ha un profumo dolce, ma i suoi occhi sono serrati. Adesso non siamo più rannicchiati. Siamo in piedi, però le mie gambe sono come gli occhi dell'uomo morto. Non posso cadere perché non c'è spazio per farlo. Gli uomini senza pelle fanno dei rumori forti. Io non sono morta. Il pane ha il colore del mare. Ho troppa fame per riuscire a mangiarlo. Il sole mi fa chiudere gli occhi. Quelli che sono capaci di morire sono in un mucchio. Non riesco a trovare il mio uomo, quello che aveva i denti che mi piacevano. Una cosa meravigliosa. La collinetta dei morti, una cosa meravigliosa. Gli uomini senza pelle li attraversano con delle pertiche, la donna con la faccia che voglio è lì. La faccia che è mia. Cadono nel mare che ha il colore del pane. Lei non ha niente alle orecchie. Se avevo i denti dell'uomo che è morto sulla mia faccia, le morderei il cerchio attorno al collo, glielo staccherei con un morso. So che non le piace. Adesso c'è spazio abbastanza per rannicchiarsi e per guardare gli altri che stanno rannicchiati. Ci si rannicchia adesso, sempre adesso. Dentro. La donna con la mia faccia è nel mare. Una cosa meravigliosa. Non posso perderla di nuovo. L'uomo morto era di mezzo, come le nuvole rumorose. Quando l'uomo muore sulla mia faccia, io riesco a vedere quella di lei. Lei sta per sorridermi. Sta per sorridermi. I suoi orecchini a punta sono scomparsi. Lei stava per sorridermi. Stava per sorridermi. Una cosa meravigliosa. Adesso non sono rannicchiati, noi sì, galleggiano sull'acqua, rompono la collinetta e la attraversano con le pertiche. Non riesco a trovare quei denti graziosi. Vedo la faccia scura che sta per sorridermi. È la mia faccia scura che sta per sorridermi. Il cerchio di ferro è attorno al nostro collo. Lei non ha orecchini a punta né un cesto rotondo. Entra nell'acqua, alla mia faccia. Io sono beloved, lei è mia. Seth. È lei che raccoglieva i fiori gialli davanti al posto in cui ci si rannicchiava. Le ha separati dalle foglie. Adesso sono sull'altra punta dove dormiamo. Stava per sorridermi quando un tratto sono arrivati gli uomini senza pelle e ci hanno portato su alla luce del sole con i morti e li hanno spinti in mare. Seth è entrata nel mare. Ci è entrata da sola. Non l'hanno spinta, ci è entrata da sola. Si stava preparando a sorridermi, ma quando ha visto che spingevano i morti in mare, ci è entrata anche lei e m'ha lasciato lì, senza la mia faccia né la sua. Seth è la faccia che ho trovato e ho perduto nell'acqua sotto il ponte. Quando ci sono entrata ho visto la sua faccia venirmi incontro ed era anche la mia faccia. Volevo unirmi a lei. Ho cercato di farlo, ma lei si è frantumata in tanti pezzettini di luce sulla superficie dell'acqua. L'ho persa di nuovo. Però ho trovato la casa di cui mi aveva parlato sussurrando. E lei era lì, sorridente. È bello. Però non posso perderla di nuovo. Tutto quello che voglio sapere è perché è entrata in acqua nel punto dove stavamo rannicchiati. Perché l'ha fatto proprio quando stava per sorridermi? Volevo unirmi a lei nel mare, però non potevo muovermi. Volevo aiutarla quando raccoglieva i fiori, però le nuvole di fumo delle fucilate m'hanno accecata. E così l'ho persa. L'ho persa 3 volte. Una volta coi fiori, a causa delle nuvole di fumo rumorose. Una volta quando è entrata nel mare invece di sorridermi. Una volta sotto il ponte, quando ero entrata in acqua per unirmi a lei e lei è venuta da me senza sorridermi. M'ha sussurrato qualcosa, m'ha masticato e si è allontanata a nuoto. Adesso l'ho trovata in questa casa. Lei mi sorride ed è la mia stessa faccia che sorride. Non la perderò di nuovo. Lei è mia. Dimmi la verità. Vieni dall'altro mondo, vero? Sì, ero all'altro mondo. Sei tornata per me? Sì. Ti rammenti di me? Sì, mi ricordo di te. Non mi hai mai dimenticata. La tua faccia è la mia. Mi perdoni? Resterai? Adesso qui sei al sicuro? Dove sono gli uomini senza pelle? Laggiù, lontano. Possono entrare qui? No, ci hanno provato una volta, ma io li ho fermati. Non torneranno mai più. Uno di loro era nella casa dove stavo. Mi faceva male. Non possono più farci male. Dove sono i tuoi orecchini? Me li hanno presi. Li hanno presi gli uomini senza pelle? Sì. Stavo per aiutarti, ma le nuvole si sono messe di mezzo. Qui non ci sono nuvole. Se ti metteranno un cerchio di ferro attorno al collo, io lo staccherò a forza di morsi. Beloved, ti farò un cesto rotondo. Sei tornata, sei tornata. sorrideremo a me. Non vedi che sto sorridendo? Mi piace la tua faccia. Giocavamo in riva al fiume. Io ero lì nell'acqua. Giocavamo ai tempi del silenzio. Le nuvole erano rumorose e si erano messe di mezzo. Quando avevo bisogno di te, tu venivi per stare con me. Avevo bisogno del suo volto per sorridere. Riuscivo a sentire solo il respiro. Il respiro è scomparso, sono rimasti solo i denti. Ma ha detto che non mi avresti fatto del male. Lei m'ha fatto del male. Io ti proteggerò. Voglio la sua faccia. Non amarla troppo. Io la amo troppo. Fa attenzione a lei. Ti fa sognare. Mastica e poi inghiotte. Non addormentarti quando ti fa le trecce. Lei è il riso, io sono la risata. Sorveglio la casa, sorveglio il cortile. Lei m'ha lasciata. Papà viene per noi. Una cosa meravigliosa. Beloved, sei mia sorella. Sei mia figlia. Sei la mia faccia, sei me. Ti ho trovata di nuovo, sei tornata da me. Sei la mia beloved, la mia amatissima. Sei mia. Sei mia. Sei mia. Ho il tuo latte, ho il tuo sorriso. Mi prenderò cura di te. Sei la mia faccia. Io sono te. Perché hai lasciato me che sono te. Non ti lascerò più. Non lasciarmi più. Non mi lascerai più. Sei entrata in acqua. Ho bevuto il tuo sangue. T'ho portato il latte. Hai dimenticato di sorridere. Ti amavo. Mi hai fatto male. Sei tornata da me. Mi hai lasciata. Ti ho aspettata. Sei mia. Sei mia. Sei mia. Maria Paiato ha letto Amatissima di Toni Morrison, traduzione di Giuseppe Natale. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, regia di Luigi Iavarone. Per riascoltare e scaricare il programma, radio3.rai.it.